sulla traccia. Che resente sulla fascia. Squadra sente baby fatto sempre 24-7 fuma ganja. Sono in giro tipo tour di Francia. Tipo culo in spiaggia. Suono caldo caldo muovo scacco matto. Gratto salgo in alto volo cado in piedi tu di faccia. Un vero gazzone. Tipo fumo nero a colazione. Dopo zitto muto all'interrogazione. Non ci ho mai tenuto alla reputazione. Stavo in casa fatto fra non fare un cazzo. Mossa spasso tipo contrapasso. Tipo quando passo sanno la cazzone. Tipo quando salgo fanno un'ovazione fra. Bra tipo pants. Sto guadagnando abbastanza. Voglio levarmi dal cazzo con mazzo di soldi che scoppia la stanza. Voglio levarmi dal cazzo mi fumo sta giollata e colla la casa. Apollo 18 NASA. Il 118 sgasa. E mi è tornato ma scola la pasta. Sono il tornado che svuota la piazza. Salgo di un altro livello di flow. Pensi di essere o sono acqua gelata. Mangio serime frate come tapas. Pugliese come le cime di rapa. Si salgo il corso con la maglia accettata. Cratto come la carta vetrata. Sono ancora in giro da 10 anni e mezzo. Voglio alzare il tiro, voglio alzare il prezzo. Tutti quanti gli altri me li metto in tasca. Il mio portafoglio ingrassa, massa grassa. Ho la salsa. Salsa. Fate c'ho la salsa. Troppa salsa. Salsa. Ma chi non punti con me? Che non fotti con me, frate di meglio non c'è, sedite guarda lo chef, no che non fotti con me, no che non fotti con me, metto più fiamme flambe, metto più sale salve, fuma sta bomba con me, bombe nel suolo e col tè, metto più fumo fume, frate mi fumo lui, sto pezzo gioca giù, devo tornare più serio, mi rubi il flow tipo Arsenio. Frate ti esplode lo stereo. Ho cominciato che qua ero il più piccolo. Adesso sono quasi senior. Però c'ho ancora sta faccia da bimbo. Per quello non sembro mai serio. Sono la prova che c'è roba nuova. Però non è trap né conscious. Focus focus. Salvo sto rap tipo onlus. Ogni mio attacco è un attacco di panico. Scarico colpi su colpi e ricarico. Salo sti rapper col gomito alzato. Li salto, li impano, li zitto, li immagino. Non mi portare il menu. Dammi la fimi, così mi scelgo due primi. Abbino due vini, fammi da orco. Portami pure secondo e contorno. Sto disco poi quasi pronto. Io invece bro quasi morto. Esco ma non so se torno. Yeah. Mangio volto di soda, pizza e polifra. Stavo alla canna del gas. Ora è mocco una canna che gas. Ed in testa una traccia che fa. Frate come fa? Sono ancora in giro da 10 anni e mezzo. Voglio alzare il tiro, voglio alzare il prezzo. Tutti quanti gli altri me li metto in tasca. Il mio portafoglio ingrassa, massa grassa. Ho la salsa. Salsa. Frate c'ho la salsa. Troppa salsa. Salsa. Ma che non fonti con me? Che non fotti con me, frate di meglio non c'è, sedite guarda lo chef, no che non fotti con me, no che non fotti con me, metto più fiamme flambe, metto più sale salve, salsa, salsa, frate c'ho la salsa, troppa salsa, salsa.